from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, Disorder de Joy Division, dall'avvio all'omonimo programma in onda ogni lunedì dalle 21.45 circa fino alle 23.15, quindi anche per oggi 23 luglio 2018. Un contenitore vario che contiene gothic, neofolk e molta molta elettronica. Ha un sito internet, naturalmente, che è quello della radio, www.ondarossa.info, utile anche per lo streaming. Domani verrà pubblicato la playlist e il podcast, cosa che accadrà puntualmente anche sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Questo è il penultimo appuntamento, quindi si chiuderà questa stagione il 30 luglio. La radio stessa osserverà un riposo di un paio di settimane almeno. Quindi vado a salutare Alessandra e Luciano qui da Roma, Luciano FM Genovese, e io vado ad iniziare con il viaggio finale che ci porta ancora una volta a Nature and Organization, un gruppo che abbiamo riscoperto e analizzato attraverso i loro due lavori, gli unici due lavori pubblicati ormai circa 20 anni fa. Proprio questo era del 1998, questo Death is a Snow Leopard Winter, un album che si caratterizza soprattutto per la struttura che ruota intorno a un pianoforte acustico suonato ottimamente da Michael Cashmore. Finiamo con l'apprezzarlo e lo finiamo attraverso la nona e l'undicesima e la dodicesima traccia, ricordando ancora una volta che le tracce allora erano prive di titoli.

finiva dunque così questo That Is No Leopard Winter. Era il secondo lavoro per Nature and Organization di Michael Cashmore. Un album in questo caso imperniato sul pianoforte in tutte le sue variazioni, quindi un album che in maniera inevitabile viene fuori così malinconico e ombroso, e pensare che poi, sentendo l'ultima traccia, aveva proprio il significato